Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Studenti in piazza sui tetti a Firenze, la polizia carica e ci sono feriti. Alla Camera governo battuto sulla riforma dell'università, il ministro Gelmini se cambia la ritiro, Bersani ribatte io altro che ripetente. Ho parlato con Berlusconi, il ministro Carfagna avverso il ritiro delle dimissioni, Palazzo Chigi presenta il piano per il Sud e la priorità, dice il Premier. Non solo risultati ma stile di vita appropriato, lo prevede il contratto di lavoro, la Juventus tenta la rivoluzione. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Tensione, dicevamo, dentro e fuori Montecitorio. Disordini a Roma, ma anche Firenze, Milano, studenti sui tetti, sulle università, a Torino, Palermo, Pisa, Ancona, bloccate stazioni, lanciate uova. Insomma, è una giornata di dure proteste del mondo accademico che sempre più si intrecciano con le già complesse tensioni politiche. Allora, andiamo a Roma, cominciamo da Montecitorio. Alessandra Schepisi, che succede? Sì, buongiorno, una mattinata veramente ad alta tensione qui a Montecitorio, segnata in particolare dal duro avvertimento del ministro dell'istruzione Gelmini ai finiani dopo che il governo è stato battuto su un emendamento presentato da Futuro e Libertà, o c'è intesa o ritiro la riforma. Tra l'altro il ministro, ironia della sorte, ha votato per sbaglio con l'opposizione. Se gli emendamenti stravolgeranno il DDL, ha detto la Gelmini, sono pronta a ritirarlo. Sentiamo. Osservo che su qualche emendamento Futuro e Libertà vota in dissenso rispetto alla maggioranza e ribadisco che se sono emendamenti di scarso valore e servono per ai fini della tecnica parlamentare, per carità, ciascuno si assume le proprie responsabilità, ma certo non sarebbe accettabile il voto di emendamenti il cui contenuto sia invece volto a stravolgere la riforma. La Gelmini prende palle distanze dai manifestanti definendo le proteste inaccettabili, stoccata anche nei confronti del segretario del PD Bersani che ieri aveva raggiunto gli studenti sul tetto della facoltà di architettura, è un leader precario, uno studente ripetente e oggi dall'aula la replica di Bersani. Il ministro non gradisce che io vada sui tetti, vorrei confermarle, primo, colleghi, calma, per calma, cortesia, calma. Vorrei confermarle che io vado e andrò davanti ai cancelli di una fabbrica in crisi, all'Asinara dove ci sono degli operai da ascoltare e sui tetti. E ci andavo anche da ministro. Tutta l'opposizione va all'attacco, il DDL deve essere ritirato, dicono PD, Italia dei Valori e UDC, il punto è soprattutto la copertura finanziaria che mancherebbe mentre la maggioranza assicura i soldi ci sono. Quanto ai tempi di approvazione, oggi dovrebbe concludersi l'esame degli emendamenti, martedì il voto finale. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi, andiamo anche fuori dall'aula di Montecitorio, Andrea Viali. Sì, sono diverse centinaia gli studenti arrivati stamattina qui all'esterno di piazza Montecitorio, una piazza naturalmente blindata come quasi tutto il centro storico di Roma, che è presidiato dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, presidiata non soltanto la Camera dei Deputati ma anche Palazzo Chigi e la residenza del Premier Berlusconi, Palazzo Grazioli. C'è anche un elicottero della polizia che controlla dall'alto la situazione, slogan e cori stanno scandendo questa protesta contro la riforma Gelmini, una protesta comunque per il momento tranquilla, non ci sono stati scontri come quelli di ieri al Senato, scontri per i quali, lo ricordiamo, sono stati arrestati due studenti che proprio stamattina sono stati rilasciati, i due verranno comunque processati a dicembre. Sempre a Roma prosegue anche la protesta degli studenti sul tetto della facoltà di architettura, sul quale oggi sono saliti anche il leader di Sinistra e Libertà Nicky Vendola ed il cantautore Antonello Venditti, che hanno solidarizzato con gli universitari. Per ora da qui è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Scontri non ci sono stati questa mattina a Roma, ma ci sono stati invece in altre città, perché non si protesta solo nella capitale, una tensione, dicevamo, che coinvolge molte città. E allora sentiamo che succede. Da nord a sud la protesta è nelle piazze, ma anche sui tetti, dove studenti e ricercatori si arrampicano e presidiano come gli operai sulla famosa gru di Brescia. Protestano a Torino, Milano, Bologna, Firenze, dove sono stati caricati dalla polizia, mentre inveivano contro la presenza del sottosegretario Santanchè in città per un dibattito sull'immigrazione. Arrampicano sull'Osservatorio Astronomico di Pisa, sul Palazzo delle Scienze di Cagliari, sui tetti dell'Università di Ancona. questo momento siamo sempre sul tetto. Siamo saliti sul tetto della mensa del 110. A Milano qualcuno si è introdotto nel palazzo dell'Agenzia delle Entrate. A Palermo sono stati lanciati petardi e fumogeni. A Bari occupata la facoltà di ingegneria. A Roma sono in migliaia. Più ancora nel resto d'Italia. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Proteste, dunque, tanta tensione che si intreccia con il già complesso clima politico. Sentivamo. Intanto Berlusconi in questi minuti sta presentando il piano per il Sud alle parti sociali a Palazzo Chigi. Domani al Consiglio dei Ministri arriveranno due decreti. Uno sbloccherà i cosiddetti fondi FAS. Il Sud è un problema nazionale, il governo si appresta a varare provvedimenti sostanziosi, ha detto il Premier. Il piano nazionale per il Sud è una parte qualificante, la base del piano che l'Italia presenterà all'Europa, ha aggiunto il ministro Giulio Tremonti. A margine c'è stato anche un siparietto, al debutto al tavolo c'era il neo segretario generale della CGIL Susanna Camusso. Il presidente del Consiglio, aprendo i lavori, l'ha salutata dicendo: ho apprezzato i suoi interventi televisivi, tantissimi auguri, più cattiva della Bindi non riuscirà ad essere. Una questione comunque politica, almeno per il momento, parrebbe chiudersi ed è quella che coinvolge il ministro Mara Carfagna. Sarebbe intenzionata a ritirare le annunciate dimissioni, così ha detto questa mattina. Ieri ho avuto un lungo colloquio con il presidente Berlusconi, che ringrazio infinitamente per la sua disponibilità e per la sua capacità di comprendere e di affrontare i problemi. Più di questo non dico, oggi avrò un incontro con i vertici del partito, più di questo non dico. Giornata dunque anche su questo fronte decisiva. Intanto però la questione rifiuti a Napoli, da cui era nato lo scontro, resta aperta. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rinviato al governo il decreto chiedendo chiarimenti. Oggi torneranno a riunirsi anche le regioni, cui è stato chiesto di smaltire una parte dei rifiuti per uscire dall'emergenza. E questa mattina è stato ospite a Mattino 24, al microfono di Alessandro Milan, Daniele Fortini, che è l'amministratore delegato dell'ASIA, l'azienda Servizi Igiene Ambientale di Napoli. In questo momento noi abbiamo ancora a terra circa 3.000 tonnellate. Questa notte ce l'abbiamo fatta a trasferire la produzione giornaliera, cioè quella di ieri, 1.300 tonnellate negli impianti che sono disponibili, però non ce la facciamo a togliere il pregresso, cioè quelle 3.000 tonnellate che da 5 giorni si sono accumulate nelle strade e che ancora non sappiamo dove portare. Abbiamo una capacità di carico importante, vale a dire che potremmo portarne via anche 400 al giorno in più rispetto a quelle che raccogliamo della produzione quotidiana, ma dobbiamo sapere dove portarli questi rifiuti, perché il problema è che non ci sono discariche, non ci sono impianti di trattamento, non ci sono altri tipi di smaltimento attualmente disponibili. Osservo che si tratta di 3.000 tonnellate e nella regione Campania ci sono discariche per 1.000.000 di tonnellate ancora disponibili. Io ringrazio le regioni del centro Italia, del nord, che si sono dichiarate disponibili ad accogliere queste tonnellate. Stiamo parlando veramente di una sciocchezza. 3.000 tonnellate a terra in una città fanno una tragedia. 3.000 tonnellate in una discarica ne può accogliere 1.000.000 è francamente una sciocchezza. E intanto il deputato dell'Italia dei Valori Franco Barbato e quello del PDL Carlo Ciccioli saranno sospesi rispettivamente per 6 e 3 giorni, lo ha stabilito l'ufficio di presidenza della Camera. Ieri Barbato, ricorderete, aveva portato in aula un sacchetto della spazzatura e Ciccioli lo aveva colpito dietro il collo. La protesta degli studenti ve l'abbiamo raccontata, c'è una notizia dell'ultima ora, alcune decine di studenti universitari sono staccati dal corteo che è in corso anche a Pisa, in Piazza dei Miracoli, alcune decine di loro stanno salendo sulla torre nella piazza, centinaia di turisti, molti dei quali stranieri, stanno seguendo la protesta, hanno raggiunto l'ultimo anello, si stanno affacciando dalla balaustra, è una delle tante proteste che stanno proseguendo anche in questi minuti in moltissime città italiane. E intanto a criticare l'eccessivo tasso di litigiosità del mondo politico è la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che stamani insieme al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha partecipato a un incontro alla LUIS dedicato ai 100 anni di Confindustria. La Marcegaglia ha parlato anche della riforma dell'università. Andrea Salomone. 100 giovani per 100 anni. Si intitola così il progetto promosso da Confindustria per avvicinare giovani e imprese. Per 12 mesi, ha spiegato Emma Marcegaglia, i giovani migliori lavoreranno nel sistema confindustriale. Presentando l'iniziativa alla presenza del capo dello Stato Giorgio Napolitano, la presidente di Confindustria ha chiesto al governo di approvare al più presto la riforma universitaria. La politica, ha detto, deve abbassare i toni e smettere di litigare, tanto più in un momento di crisi come l'attuale. La tensione dei mercati, ha concluso, minacciando direttamente l'Italia, allunga un'ombra sulla ripresa. A voi studio. Grazie ad Andrea Salomone. La cultura che protesta, ma c'è anche una buona notizia in qualche modo, perché c'è un caso in cui si prova a voltare pagina. Rinasce a Monforte d'Alba, dalle ceneri del premio letterario Grinzane Cavour, il premio Bottari Lattes Grinzane. È nato ufficialmente qualche ora fa, 13 metri sottoterra, nella sala convegni del Palazzo di Grinzane a Monforte d'Alba. È il nuovo premio letterario internazionale Bottari Lattes Grinzane, che intende, nelle intenzioni degli organizzatori, che se ne sono aggiudicati il titolo dopo varie vicende processuali, esprimere una discontinuità forte, nella continuità però con il premio Grinzane-Cavour, risoltosi a causa delle ben note vicende giudiziarie del patron Giuliano Soria. Una rinascita dalle ceneri, dunque, è anche uno scopo nuovo, non solo premiare gli autori famosi, ma puntare essenzialmente a scoprire nuovi talenti letterari. Il motto con il quale si è presentato il premio Bottari Lattes, intitolato alla straordinaria figura di Mario Lattes, editore, pittore e animatore culturale, prende le distanze dal passato e recita: la buona letteratura è sempre onesta. La Fondazione Bottari Lattes intanto ha acquistato all'asta per 21.000 euro Casa Placido a San Benedetto Beldo, in provincia di Cuneo. Era uno dei lotti compresi nella liquidazione dei beni dell'associazione del defunto premio Grinzane Cavour, un posto già cantato da Fenoglio, che sarà una delle case del nuovo premio. Stefano Salis, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Procura di Firenze avrebbe chiesto e ottenuto il sequestro di denaro e beni per oltre 1 miliardo di euro nell'ambito dell'inchiesta sulla casa farmaceutica Menarini, per la quale sono in corso perquisizioni in varie regioni. In base a quanto si apprende, la cifra è quella fatta rientrare con lo scudo fiscale, ma che gli investigatori ritengono sia frutto di condotte illecite. C'è un'altra notizia degli ultimi minuti: aveva un caricatore per mitragliatrice con 29 colpi inesplosi. Per questo motivo un cittadino israeliano in partenza ieri dall'aeroporto di Roma Fiumicino per Tel Aviv è stato arrestato dalla Polaria e ora nelle carceri di Civitavecchia con l'accusa di trasporto d'armi a bordo di aerei. Le notizie di oggi di GR24: studenti in piazza sui tetti a Firenze, la polizia carica, la Camera governo battuto sulla riforma, il ministro Gelmini se cambia la ritiro. Ho parlato con Berlusconi, il ministro Carfagna avverso il ritiro delle dimissioni, Palazzo Chigi presenta il piano per il Sud e la priorità, dice il Premier. Operai sui tetti anche a Marghera, proteste al petrolchimico, arriva il freddo al nord, nel fine settimana la neve anche in città. Ma ripartiamo, come dicevamo, dall'Europa e dall'Irlanda. Moody's ha posto sotto osservazione per un eventuale nuovo declassamento del rating di alcune banche irlandesi e istituti di credito specializzati in mutui, una notizia che questa mattina non è piaciuta ai mercati. Ma intanto, che succede a Dublino? Andiamo da Leonardo Maisano, buongiorno. Buongiorno a voi. Come stanno vivendo allora gli irlandesi questi giorni sotto la pressione della crisi, Leonardo? Ma sono giorni di shock ormai che si trascinano da settimane, da mesi, perché quello che sta succedendo è una, come dire, una sorpresa per noi, o una relativa sorpresa per noi, non lo è per gli irlandesi, che da tempo avevano capito che ormai il sistema non funzionava. Il paese è in una situazione di deflazione galoppante, i prezzi delle case sono precipitati, in generale le condizioni di vita si sono pesantemente aggravate. Certo che il pacchetto che poi ha introdotto ieri il governo irlandese, con la previsione di 15 miliardi di manovra nei prossimi 4 anni, cioè questo vuol dire 10% del prodotto interno lordo irlandese, è una notizia che aggrava ulteriormente il quadro, come dicevo. Molto pesante per gli irlandesi. Il timore dei mercati, Leonardo, resta quello che i piani di salvataggio comunque non bastino. Tu che ne pensi? No, in realtà bisogna scindere le due cose. Un discorso è il deficit irlandese, che è un problema, diciamo così, relativo, è l'11% del PIL, non molto diverso da quello inglese. Okay? E su questo fronte le misure introdotte ieri appaiono assolutamente sufficienti. Il problema è è come sempre quello delle banche. Ora bisognerà vedere questo, per questa trattativa che sta andando avanti con l'Unione Monetaria, con l'Unione Europea e il Fondo Monetario, a che conclusione arriverà. E certamente metterà a disposizione 85 miliardi di euro, che dovrebbe essere una cifra complessivamente sufficiente. Il dubbio dei mercati di ieri è che le previsioni di crescita dell'economia irlandese fatte dal governo non siano un po' troppo ottimistiche. Con gli economisti con cui ho parlato io in realtà ho avuto sentori diversi, cioè la sensazione invece che siano sufficienti, in alcuni casi potrebbero, secondo i più ottimisti, addirittura essere eccessive. Il quadro è molto cangiante, è difficile dare una risposta certa. E vedremo. È evidente che quello che sta facendo il governo in questo momento è il massimo che si possa fare. Possibile in questo momento. Grazie a Leonardo Maisano. Naturalmente torneremo a raccontarvi che succede in Irlanda. Intanto però in Bruxelles, dall'Europa, questa mattina sono arrivati altri importanti dati che riguardano l'occupazione. Allora da Dublino andiamo a Bruxelles. Antonio Pollio Salimbeni. Buongiorno. Cosa dicono i dati? Più che dati, oggi la Commissione europea ha pubblicato un rapporto sull'occupazione del 2010. L'unica cosa interessante, ma non è un dato nuovo, è che da quando l'occupazione è stata colpita dalla recessione, quindi dal 2008, inizio 2008, si sono persi nell'intera Unione europea 5.600.000 posti di lavoro. Il problema è a quale ritmo, quando potranno essere riassorbiti. La seconda indicazione che viene da questo rapporto è che la parte più vulnerabile del mercato del lavoro, cioè i giovani fra i 15 e i 24 anni, sono i più colpiti. Ci arriva in alcuni paesi anche a un 30% di disoccupazione, in Spagna il 40%, in Italia attorno al 25%. Grazie ad Antonio Pollio Salimbeni. E allora in Italia veniamo, dove non ci sono solo le proteste dell'università ma anche quelle del mondo del lavoro. I 36 ex precari della Fiat Auto di Pomigliano d'Arco sono saliti questa mattina sul tetto del municipio, chiedono un incontro urgente per ottenere la mobilità in deroga per il 2011. Già lo scorso anno occuparono il municipio alla scadenza del contratto con la Fiat e vi restarono per tutto il periodo natalizio. Proteste anche al petrolchimico di Marghera, dove alcuni operai della Vinils sono saliti questa mattina sui camini del petrolchimico. Le tute blu hanno raggiunto la cima delle torri protestando dopo che ieri l'incontro tra il ministro Paolo Romani e i commissari straordinari non avevano portato ad una decisione sulle offerte giunte per i 3 siti italiani della società. Sul posto si trovano in questo momento le forze dell'ordine. Ma ci sono anche segnali positivi, ancora in crescita a novembre la fiducia delle imprese industriali, lo rileva l'ISAE, spiegando che l'indice considerato al netto dei fattori stagionali sale da 100,1 a 101,6, portandosi sui massimi dal marzo 2008. Sono stabili i giudizi sugli ordini e le scorte, mentre crescono nettamente le attese a breve termine sulla produzione. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. 2010 invece è partito benissimo sin dai primissimi mesi. I dati a settembre 2010 ci vedono con un incremento del 14,56%. A fornire i dati è Michele Bozza, direttore commerciale di Lamontina, azienda della Francia Corta che produce vini e spumanti. Il 2009 aveva visto un leggerissimo calo del fatturato, quasi l'1%. Preoccupava però il fatto che la diminuzione era avvenuta negli ultimi 3 mesi, quando in vista del Natale il mercato delle bollicine in genere si impenna. Poi la ripresa, che Michele Bozza spiega così. C'è stato proprio un incremento da parte del consumatore finale di una ricerca verso probabilmente i prodotti anche di qualità, quindi la Francia Corta è stato uno dei pochissimi territori, a quanto sento in giro per l'Italia, che ha mantenuto i consumi per quanto riguarda le bollicine nobili. Ovviamente abbiamo incentivato molto di più la presenza anche della nostra rete commerciale sui vari territori. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Milano tolte le illuminazioni in varie lingue nella via simbolo dell'immigrazione. Ora si tratta. via l'inglese, lo spagnolo, il cinese e l'arabo. Rimosse le scritte di auguri natalizi multietnici in via Padova a Milano, che multietnica è in quanto sede di una orchestra, quella di via Padova per l'appunto che state ascoltando, composta da 15 musicisti di 9 nazionalità diverse. Le scritte le ha rimosse l'assessore all'arredo urbano Maurizio Cadeo, perché non era previsto che venissero apposte in quella strada, ha spiegato. Via Padova non è una di quelle vie che ha partecipato al bando di concorso in cui i commercianti mettono dei soldi e da un lato l'amministrazione e dall'altro la Camera di Commercio aiutano. Pensavamo di fare comunque un regalo. Dopodiché ci hanno modificato il progetto senza avercelo a chiedere, quindi ho visto un po' di strumentalità e non ho fatto conto che probabilmente stiamo entrando in campagna elettorale. Il Comune di Milano troverà una posizione di equilibrio, si affretta a garantire il sindaco Letizia Moratti, che presto incontrerà Cadeo. Intanto il quartiere ha già pronta la sua risposta: manifesti di auguri in varie lingue del mondo e distribuzione di volantini. Il consigliere comunale PD Pierfrancesco Maranna. Non siamo ad Ado, non siamo nella profonda provincia padana, ma siamo una città che vuole avere una sua carattere di internazionalità. Persino la Lega con Salvini dichiara benvenuta ogni luminaria straniera. Una posizione non univoca, sottolinea però Cadeo. Davide Boni è uscito in toni simili ai miei, ma a me non interessa. Se la Lega prende posizione avrà le sue ragioni, a me onestamente, con tutto rispetto per la Lega, non interessano. Anderita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arriva l'inverno, una discesa d'aria molto fredda dalla Scandinavia è già arrivata sulle regioni del nord. Dopo la pioggia, per i prossimi giorni sarà anche allarme neve, allarme che riguarda anche alcune città in Piemonte e Lombardia. Questione di stile anche nel calcio, e ora c'è chi lo ha scritto nero su bianco su un contratto, sentite. Per qualcuno è una rivoluzione contrattuale del mondo del pallone, per altri è semplicemente una restaurazione. Di sicuro fa discutere, perché con il contratto juventino firmato martedì sera dal difensore Giorgio Chiellini, la partita si allarga a 24 ore, nel senso che un calciatore d'ora in avanti non dovrà render conto solo di quanti gol ha segnato o subito, ma anche dei suoi comportamenti. L'abito fa il calciatore, quindi un minimo di decoro, mai commenti plateali, niente discoteche, infradito e attività extra lavorative non gradite dalla società. Ma è un passo avanti o indietro? Per Antonio Cabrini, storico difensore bianconero, tutto rientra nella tradizione della società. Chiaro che non devi andare vestito come uno straccione in giro, perché comunque fa parte anche questo della mentalità bianconera e soprattutto dello stile Juventus. Per Fulvio Collovati invece è un chiaro ritorno al passato. È un ritorno alle origini, quando le società avevano potere nei confronti dei calciatori e vogliono ritornare le società ad avere il potere che avevano 30 anni fa, 40 anni fa, quando decidevano loro il destino del giocatore. Poi negli anni si è perso tutto, il calciatore è diventata la figura primaria e di conseguenza aveva assunto quel potere che poteva fare benissimo quello che voleva. Insomma, siamo a una svolta, anche perché Chiellini è un tipo da spot. Nazionale, con un contratto fino al 2015 da 3 milioni e mezzo a stagione, Chiellini non è uno qualunque. Farà tendenza, molto probabile, ma non ditelo a Ronaldinho e Balotelli. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi per il momento ci fermiamo qui. Fabio Cantadori in regia. Ancora un saluto, una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, come sempre, vi aspetta alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.